America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Wall Street ha festeggiato con l'Europa, con i mercati europei, la chiusura del vertice dell'Eurogruppo che ha dato, ovviamente, secondo il giudizio del mercato, dei risultati positivi. Dunque il Dow Jones ha chiuso al 2,2% in rialzo, S&P 500 2,49%, il Nasdaq più 3%. Come è stata la reazione politica a questo accordo europeo? We continue to believe that the Europe, we know that the Europeans have it within their capacity to deal with this challenge. Jay Carney, il portavoce della Casa Bianca, che in passato ha lanciato ammonimenti anche piuttosto severi per conto del presidente ai leader europei, in questo caso dice di aver accolto con soddisfazione, con piacere, i progressi che sono stati fatti dai leader europei nell'ultimo vertice, però sottolinea Carney, e dunque una nota di sobrietà non dissimile da quella che abbiamo ascoltato dal presidente del Consiglio Mario Monti, che insomma le difficoltà dell'Europa non possono essere risolte da un giorno all'altro, che ci sono ancora molti dettagli da discutere. Comunque dice un segnale incoraggiante che i leader europei stiano cercando un modo per ridurre immediatamente la tensione dei mercati e intraprendere riforme a lungo termine, piani di integrazione per promuovere la crescita e la responsabilità fiscale. E naturalmente Carney sottolinea che questo è nell'interesse strategico degli Stati Uniti, ha addirittura sottolineato che è una questione di interesse nazionale che l'euro sopravviva. Dunque va a sfatare con queste sue parole Carney l'idea che, devo dire, molti ce l'hanno in Europa, secondo cui l'America vorrebbe vedere l'euro affossato, vorrebbe vedere un'Europa divisa perché teme la concorrenza dell'Europa. Molti ritengono che il problema del debito americano preoccupi Washington e dunque si vuole buttare la croce sull'Europa. Non è così. All'America conviene avere un'Europa unita, forte, che produca e che possa migliorare l'interscambio. La Casa Bianca, ha detto Carney, continuerà a monitorare, a seguire la situazione e resterà in contatto con i leader europei. Good morning, Senator. Good morning, Mario. C'è un problema non da poco con cui si confronta l'America, quello del disavanzo. Ne ho parlato, direi, con una delle massime autorità in materia, il senatore Alan Simpson. So, you see a solution before November 6th? No, but I see a solution between November 6th and December 31st. It will be chaotic, but it will be a solution. Might be temporary, but it'll be a solution. Chiedo al senatore Simpson se ci sarà una soluzione al problema del disavanzo pubblico americano. Ricordiamolo, il 10% del prodotto interno lordo americano e il debito raggiunge ormai il 100% del PIL, sono cifre di proporzioni europee e dunque molto molto preoccupanti, eppure i mercati sembrano tranquilli. Perché? Ecco, la risposta ce la dà proprio Simpson. Intanto voglio ricordarvi chi è Simpson. Alan Simpson, con Ernst & Boll, è stato incaricato dal presidente Barack Obama e dalle commissioni bipartitiche del Congresso di scrivere un rapporto che poi è stato presentato, un rapporto di 62 pagine, con raccomandazione per la riduzione del disavanzo pubblico americano, per rimettere ordine nei conti degli Stati Uniti d'America. Il rapporto è stato molto severo, alla fine la politica, come sempre succede, ha prevalso. Essendo vicino l'anno elettorale, questo 2012, i repubblicani e democratici hanno deciso di non risolvere il problema, ma di rimandare la soluzione a più tardi, a dopo le elezioni. E dunque il messaggio che dà Simpson, che è poi il messaggio condiviso dai mercati, è che non ci sarà una soluzione al disavanzo pubblico americano prima delle elezioni, ma ci sarà una soluzione tra il 6 di novembre e il 31 di dicembre, cioè fra il giorno delle elezioni e la fine dell'anno, prima che si vada a insediare il nuovo Parlamento. Questa è una linea condivisa fra molti degli operatori di mercato. E quindi chiedo al senatore se poi, dopo questa attesa, diciamo così, soluzione, quantomeno atteso accordo, prima che intervengano meccanismi di tagli automatici che nessuno davvero vuole, l'America sarà fuori dalle secche, fuori dal momento difficile. Sentite la sua risposta. No, we'll be still in the doldrums, but out for a little while. Just for a few months, because they'll probably do an extension into, you know, 6 months into 2013. Exactly, like they've done the other time. Mm-hmm. Kicking the can down the road is called. Molto candidamente Simpson, come sentite anche dal tono della sua voce, dice ma dice fuori dalle secche, beh forse mi sembra un po' eccessivo, il problema è talmente grande che diciamo nelle secche ci saremo per un po' e ci dà poi un quadro, adesso non vi ho fatto sentire tutta la registrazione, ma poi ha dato un quadro secondo cui appunto l'impostazione che si cerca di dare alla soluzione di questo problema è una impostazione decennale, si dovrebbe cominciare con tagli già nel 2013 per poi arrivare fino al 2020-2022 con tagli complessivi per 4.000-5.000 miliardi di dollari. Ci sarà un impatto negativo sul tasso di crescita americano, ovviamente da una manovra restrittiva non diversa da quelle di austerità che abbiamo adottato in Europa, ed è a quel punto che molti si aspettano l'intervento della Federal Reserve. Inevitabile che facessi una domanda a Simpson sulla situazione europea. That will affect us deeply because, you know, we like to sell stuff over there to people. There is no such thing in the world as shared sacrifice since World War II. Beh, Simpson ha accolto con favore, come l'hanno accolta tutti, il fatto che al vertice dell'Eurogruppo ci sia stato un accordo di massima, ma da un avvertimento, devo dire, non diverso da quello di Jay Carney, dice cioè di andare avanti, soprattutto dice da una parte di non dimenticare gli impegni di austerità e spezza una lancia a favore della Germania, sottolineando che l'austerità è importante, come del resto lui ha suggerito di fare al suo stesso governo, ai suoi stessi parlamentari, e dunque occorre rimettere ordine nei conti. In questo senso il ruolo della Germania, dice Simpson, è stato sicuramente positivo. Dunque non mollare, non deviare dagli impegni di austerità, dagli impegni fiscali già sottoscritti. Però rilanciare da una parte la crescita, e questo lo abbiamo sentito ovviamente più volte, infine un messaggio, direi scomodo, però molto chiaro e molto vero. Secondo Simpson occorre che un paese come l'Italia, e qui ha parlato soprattutto dell'Italia, metta mano all'amministrazione pubblica, rappresenta ancora una voce di spesa molto elevata da un punto di vista di percentuale sul PIL nazionale, i dipendenti pubblici continuano ad essere numerosissimi. Lui stesso sottolinea come in America sia molto difficile ridurre l'impiego dei dipendenti pubblici, però dice c'è una via, ed è la via dell'attrito. Nel momento in cui ci sono dei prepensionamenti o dei pensionamenti, la cosa più semplice da fare è semplicemente non assumere dei rimpiazzi, non assumere delle nuove persone. In quel modo non si toglie il posto di lavoro a nessuno, ma si diminuisce comunque l'impatto percentuale dell'economia pubblica statale sulle casse dello Stato. Infine, e questa devo dire è un'autocritica americana, un messaggio molto così schietto, ricordiamolo, Simpson non è più senatore, Simpson è un grande vecchio della politica americana, è un repubblicano doc, dunque è pro business. Ebbene, nella chiacchierata che ho fatto con lui commenta gli sviluppi recenti che abbiamo seguito su JP Morgan Chase, e dice non è possibile che continuino ad esserci queste operazioni fatte da persone che stanno incollate, appiccicate davanti a un monitor, che non sanno nulla di altro e che alla fine cercano semplicemente di guadagnare dei soldi, magari poche migliaia di dollari in una giornata, mettendo a rischio il resto del sistema. Occorre fare qualche cosa, occorre evitare che si ripresentino situazioni simili a quella che abbiamo visto a JP Morgan Chase, la grande banca americana, che ha perduto per colpa di un'operazione spericolata, le ultime stime dicono oltre 9 miliardi di dollari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive i tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno, Tilly and the Wall, la band indie pop di Omaha, Nebraska, ha annunciato l'uscita di un nuovo disco dal titolo Heavy Mood. Uscirà ad ottobre, il primo in 4 anni, in anteprima di Tilly and the Wall, Love Riot. da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.